9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, mi tocca ripetermi, ma io posso fare solo questo refrain anche oggi venerdì 5 di marzo, rispetto a una cronaca politica che è oramai movimentata non dalla campagna elettorale, motivo per il quale siamo da lunedì scorso nella seconda fase della par condicio, chiamiamola così, rafforzata, che riguarda gli organi di informazione, in ordine alla quale non potrei qui trattare alcun argomento politico se non garantendo una fotografica rappresentanza di tutti i candidati alle elezioni, cosa impossibile in un'ora di trasmissione, e quindi dovrei, così prescrive la regola adottata, astenermi da qualunque osservazione di carattere politico, astenermi dal citare qualunque circostanza che individui persone, attori politici, sviluppi della situazione in corso, sondaggi, tendenze, opinioni. Dovrei fare questo. Allora, in realtà, quindi, non sono in grado di fare trasmissioni, perdonerete il mio limite, ma non sono in grado di immaginare come potrei trattare, non, ripeto, della campagna elettorale, ma degli eventi di gravità assoluta che la stanno contrassegnando in assenza di una vera campagna elettorale, visto che siamo al punto in cui regioni primarie non vedono presentate alcune liste, vedono l'esplosione della contestazione sulle procedure in base alle quali la magistratura ha accertato che mancano i presupposti per quelle liste, e l'ipotesi di interventi straordinari di emergenza per o tenere le elezioni, comunque se questa fosse la soluzione confermata dalla magistratura, oppure invece fare decreti per farle slittare, fare decreti per cambiare le norme fin qui vigenti, farle con la convergenza dell'opposizione, farle contro l'opposizione. Io in realtà però, ripeto, non potrei fare altro che semplicemente aprire i microfoni e far parlare voi, cosa che è sempre una buona cosa, ma per questo ci sono altre trasmissioni. Il pomeriggio c'è Cruciani, c'è il sondaggio che mi ha preceduto con Milan la mattina. Io, dovendo fare un programma di approfondimento, posso solo dire che mi considero un cretino a fare questa figura, me ne scuso con voi ascoltatori, però oggi ci occupiamo di una cosa molto seria, anche se non posso occuparmi della cosa che come informazione dovrei ovviamente far precedere a tutto. Questo regolamento, l'unica opinione di cui mi assumo la responsabilità, e nel caso in cui qualcuno dovesse sanzionare l'azienda sarò io che pago, lo dico per rassicurare il direttore e l'editore, questo regolamento è da teste di pifferi, questa è la mia opinione, perché fa fare a me il cretino e a voi fa fare la parte di chi o gira e ascolta musica, perché altrimenti una radio di informazione che non possa fare informazione non è più una radio di informazione, è una radio imbavagliata. Comunque, oggi ci occupiamo di socialismo municipale e usiamo questa formula che fu inventata, rilanciata o meglio, nel 2005 da Confindustria, l'allora presidente era Luca di Montezemolo, in polemica esplicita contro il fatto che, a distanza di più di 10 anni dall'avvio di privatizzazioni molto importanti, quando lo Stato iniziò nei primi anni 90 a smontare la sua grande presenza nell'economia e quindi accedere alla telefonia, uscire dalle autostrade, nelle grandi imprese energetiche, in realtà semplicemente a quotarle e a non perdere il controllo, ma a farle diventare società che a tutti gli effetti poi hanno dentro capitale estero e quindi hanno comunque degli obblighi di trasparenza, di rendicontazione al mercato, di credibilità dei propri conti, e sono anche quindi stimolati a produrre utili. Però in tutto questo invece a livello locale si assisteva e si è continuato ad assistere ad una presenza sempre più forte degli enti locali in società in cui però dall'inizio del Novecento in realtà era forte la presenza degli enti locali, cioè del pubblico nell'economia, e lo facciamo in occasione del fatto che è in libreria una bella, utile anche a chi non è addetto ai lavori, guida complessiva su questo tema che fotografa la realtà della diversificata presenza del socialismo municipale in Italia e ne fa una fotografia sui dati, sugli andamenti, sui settori in cui queste società sono presenti, ne studia a livello geografico, regionale, provincia per provincia e anche per maggiori capoluoghi di provincia, la diversificazione nei diversi settori, il modello economico, quanto utile, quanta perdita fanno, e si interroga soprattutto sulle loro evoluzioni nel tempo. Oltretutto è molto utile tenere sotto occhio i primi capitoli, sono quelli in cui si ricostruisce la vicenda delle municipalizzate italiane dalla legge Giolitti all'inizio del Novecento fino ad oggi, fino alle diverse tappe. Quelle dell'intervento normativo all'inizio degli anni 90, poi la Bassanini-Ter. La Bassanini-Ter, diciamo, negli ultimi 10-12 anni è quella che spinge sull'onda anche dell'evoluzione del quadro comunitario in ordine alle imprese che danno servizi economici di carattere generali, che spinge le municipalizzate o a rimanere non più nella vecchia forma di società gestita direttamente dai comuni, ma comunque ad assumere una forma di SPA, e poi naturalmente a distinguersi in quello in cui c'è la presenza del privato dentro, ma sempre con controllo pubblico, quello in cui, rarissimi casi, in realtà la SPA è davvero privata, rarissimi casi, e a disciplinare poi le diverse procedure che dipendono anche dalla presenza di privati o meno nel capitale, per l'evidenza pubblica delle messe a gara dei servizi. Ed è questo in realtà poi il purgatorio che di anno in anno, a ogni finanziaria, vede le regole ritoccate. Ne abbiamo parlato recentemente, alcune settimane fa, vi ricordate, quando abbiamo affrontato il capitolo dell'acqua nel nostro paese, in vista della manifestazione nazionale che si tiene per il coordinamento di chi vuole difendere l'acqua pubblica, e abbiamo per l'ennesima volta ricordato come anche nel dicembre del 2009 il governo attuale abbia ritoccato le norme in base alle quali, a seconda della percentuale che nella municipalizzata quotata il pubblico ha, dovrà scendere entro il 40% e poi il 30%. E che cosa significa questo per gli affidamenti a gara della erogazione dei servizi, piuttosto che invece all'ipotesi di mantenere le concessioni in house, in casa? È una disciplina complessa, anche quella a livello comunitario, che consente molte interpretazioni diverse sugli affidamenti in house piuttosto che sulle evidenze pubbliche e sulla durata delle concessioni, e la realtà italiana quindi è una realtà molto diversificata. Prima di presentarvi gli ospiti, vi ripeto solo alcuni dati di questa controversa realtà italiana, e vi devo premettere che gli autori di questo libro, ne ripeto il titolo, Comuni SPA, il capitalismo municipale in Italia, gli autori sono Carlo Scarpa, Paolo Bianchi, Bernardo Bortolotti e Laura Pellizzola, lo trovate in libreria per Il Mulino Editore, costa 15 euro. Le conclusioni degli autori di questo rapporto non sono univocamente e ideologicamente orientate a dire la presenza del pubblico attraverso le municipali è negativa. Anzi, l'interesse di questa analisi, dati economici delle diverse tipi e per diversi settori presenti di municipalizzate, è quello di osservare come in realtà nelle aree in cui la taglia delle imprese pubbliche locali è maggiore e si ottengono oltretutto risultati migliori nel nord, ma non solo nel nord, è una chiazza di leopardo, ci sono aziende che perdono anche nel nord e aziende che insomma vanno meno male del resto di quelle del sud, anche del sud, si realizza esattamente nelle aree dove le attività economiche sono più concentrate e maggiore il valore aggiunto sia per l'impresa privata che per quella pubblica. E quindi si potrebbe pensare, dicono gli autori alla fine, che la presenza pubblica nell'economia con le società a controllo municipale in realtà è una forma sussidiaria integrativa più che sostitutiva che spiazza il mercato. Io non ne sono molto convinto. Comunque stiamo parlando di circa un migliaio di imprese che consolidano come capogruppo i conti di circa 5.000 società controllate dagli enti locali, soprattutto dai comuni, in tutta Italia. Stiamo parlando di circa quasi 250.000 dipendenti, più o meno 43-45 miliardi di euro, a seconda di quanto ampio l'aggregato fatturato. E dico solo questo, lo trovate alla prima pagina. Ci sono oltre 100 imprese tra queste migliaio che fanno perdite superiori a 1 milione di euro, ma ce ne sono poi almeno altrettante che ne fanno di utili invece superiori al 1 milione di euro. Poi ci sono quelle che vanno bene, e quelle che vanno bene distribuiscono ai loro azionisti utili, insomma, per quasi 2 miliardi di euro l'anno, mica poco con questi tagli ai trasferimenti da centro a periferia. Però ci sono quelle che perdono, e quelle che perdono perdono quasi 1 miliardo di euro l'anno. Allora il problema è che tra chi perde ed è concentrato soprattutto al sud, ma non solo, e chi invece guadagna, perché sta soprattutto nell'energia elettrica, e sta soprattutto, si è aggregato e consolidato soprattutto al nord, ci sono anche due modelli. Cioè ci sono le imprese municipali che negli anni, per la taglia che hanno avuto, per il settore in cui insistono, per l'economicità di gestione, per gli utili che fanno, i dividendi servono ai comuni a finanziarsi anche, oltre che a dare servizi. Non è detto quindi che diano i servizi, ovviamente, come si intendeva nella vecchia municipalizzata, al prezzo più basso rispetto a quello che farebbero i privati. E secondo me non è neanche giusto che servano quello. Dalle altre parti, invece, là dove si perde, e soprattutto nel settore ambientale e del trattamento rifiuti, dove ci sono imprese che perdono un mucchio di soldi, soprattutto nel sud, in quel caso è ovvio che il comune non può utilizzare la municipalizzata per quello, ma utilizza spesso, anzi, l'outsourcing, l'esternalizzazione delle società che controlla, per spendere in più rispetto a quello che potrebbe nei propri conti con il patto di solidarietà interna. E quindi c'è anche il problema di municipalizzate che realizzano una parte di spesa fuori controllo, perché quasi il 50% della spesa totale dei comuni italiani avviene attraverso le società controllate, che è un bell'aggregato perché, ripeto, aggira i vincoli del patto di solidarietà interno e, in tempi in cui i comuni sono indebitati per i derivati eccetera eccetera, pone un grave problema sulla trasparenza e l'affidabilità dei conti. Fine del mio pistolotto, troppo lungo. Ecco gli ospiti a cui cedo la parola. Abbiamo innanzitutto con noi uno degli autori, cioè il professor Carlo Scarpa, che insegna economia all'Università di Brescia ed è coautore del volume. Buongiorno professor Scarpa. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Poi abbiamo Federico Sassoli De Bianchi, che è il presidente di Civicum, che è una benemeritissima, lo dico sempre, iniziativa privata che da anni a Milano si è dato, tra gli altri, il compito di mettere in leggibilità parallela i bilanci degli enti locali, che non sono affatto redatti secondo criteri contabili comuni e quindi spesso non sono paragonabili. Lo fa per grandi città, trovate sul suo sito, ne parleremo, tutti i rapporti che ha negli anni accumulato sui grandi centri italiani, e lo fa anche quindi per le municipalizzate. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. E poi abbiamo Franco De Benedetti, editorialista del Sole 24 Ore, già senatore per il centro-sinistra, e che anche, oltre che sostenitore del mercato, se leggete i suoi articoli sul Sole 24 Ore e non solo, è anche però consigliere di amministrazione di Iride Spa, un'importante municipalizzata, Torino e Genova insieme, di quelle che insomma dovremmo considerare, e consideriamo di quelle che non se la passano peggio, però insomma un sostenitore del mercato, anche amministratore di una di queste espressioni. Buongiorno. Allora, professor Scarpa, iniziamo da alcune delle conclusioni. Ho parlato di un giudizio aperto, però insomma iniziamo dalle critiche. È senz'altro un mondo nel quale di nefandezze se ne vedono tante. Giusto per sintesi, è chiaro che il metro del profitto non è necessariamente il metro più adatto per valutare delle imprese in mano pubblica, ma è evidente che quando si vedono delle imprese che perdono milioni e milioni di euro all'anno, ci si chiede che cosa gli azionisti, quindi i comuni, abbiano in mente, che cosa intendano fare. E purtroppo in realtà questo è uno dei capitoli aperti, nel senso che molto spesso vediamo dei comuni che parcheggiano dei costi in queste imprese, consentono che queste imprese facciano perdite e poi aspettano nel tempo che qualcuno faccia il salvataggio di queste imprese, ovvero dei comuni stessi. Quindi c'è un grossissimo problema di finanza locale che emerge in questo senso. Si spende ma non c'è la responsabilità delle entrate, e questo è una delle tragedie della finanza locale del paese, direi. Senta, rispetto al modello, diciamo, dell'Italia quando è nata, è il modello che oltre alla destra che ha fatto l'Italia, la destra storica sto parlando, e alla sinistra storica, rimane fino a Giolitti, cioè il fatto che in realtà le concessioni e le organizzazioni dei servizi, quelli dell'illuminazione pubblica, le tramvie eccetera, nell'Italia di allora erano praticamente consentite solo ai privati. Solo dal 1898, la legge finanziaria sui comuni, il nuovo regime consente ai comuni di iniziare l'organizzazione. Ma la domanda esplicita che faccio: era così sbagliato quel vecchio sistema? O non è stata una grande illusione all'inizio del Novecento quest'idea che i comuni attraverso le municipalizzate potessero dare servizi a prezzi non di mercato, visto che adesso bisogna darli a prezzi di mercato e servono per fare più risorse per il pubblico? Ma in realtà questa idea che queste imprese avrebbero potuto aiutare a finanziare i comuni era presente fino dall'inizio del Novecento. Mi sono divertito tantissimo a riguardarmi anche il dibattito parlamentare che siamo andati a ripescare in vecchi documenti, un dibattito divertentissimo, e molti francamente dicevano: ma perché dobbiamo lasciare tutte queste rendite dei privati quando noi abbiamo bisogno di quattrini e siamo noi a regalargli queste rendite? E prendiamoci noi questi servizi e cerchiamo di trovare un equilibrio un po' migliore tra fornire dei servizi di qualità a condizioni non troppo onerose, eccetera, ma anche per fare dei quattrini che poi possiamo spendere in altri campi. Però, però professor Scarpa, io glielo dico perché spesso ce l'equivoco. Io immagino che anche oggi gli sms, le telefonate, ne parleremo poi con De Benedetti, arriveranno dicendo: voi lo volete levare ai comuni e poi però avete voluto che si trasformassero in spa e quindi le avete spinte a fare il profitto, quindi non a praticare le tariffe tra virgolette sociali, anche se poi in realtà per molte di quelle che perdono, la realtà è che perdono perché i comuni non vogliono alzare le tariffe. Lo abbiamo visto nell'acqua che c'è questo problema nel nostro paese. Poi in realtà voi nel rapporto sottolineate un dato che per me è centrale, lo dico sempre a chi ascolta, prima di parlare di eccesso di privatizzazione societaria anche col capitale pubblico, ma che spinge quindi la forma pubblica a essere impropria. Guardate che ad avere sul totale delle migliaia di società di cui stiamo parlando, un migliaio come capogruppo, 5.000 controllate, ad avere un socio privato di controllo, siamo al 9% in Italia, è così o no? Allora, questo professor Scarpa, questo dato non falsa tutto il dibattito? Non bisognerebbe parlare di socialismo e basta, che invece che di... Nel titolo ci siamo infatti divertiti a usare questo termine del capitalismo municipale, anche perché intanto sono fondamentalmente società per azioni, però è vero che c'è una presenza pubblica assolutamente enorme. Cioè, quando si parla di acqua in mano privata, ma in realtà l'acqua è in mano privata in una percentuale estremamente limitata dei casi in giro per l'Italia, quando si dice che abbiamo ad esempio un sistema idrico che ha dei gravi problemi, ricordiamoci che quasi tutto questo sistema idrico è gestito dal pubblico, quindi attenzione a legare alla presenza pubblica qualcosa di straordinario. Attenzione anche peraltro a pensare che il privato di per sé sia un rimedio così miracoloso, purtroppo così non è. Cioè in realtà tranne che le autostrade e in un paio di casi di grandi aeroporti italiani, il privato non dico che non c'è, ma è minoritario. È assolutamente minoritario, nella grandissima parte dei casi, in oltre la metà dei casi, il privato non c'è per nulla, quando c'è è tipicamente in posizione minoritaria rispetto al pubblico. Allora io la fermo qua perché adesso affrontiamo anche con il senatore De Benedetti la parte per così dire di definizione di che tipo di società e che tipo di obiettivi, perché poi nella seconda parte invece della trasmissione insieme a Civicum e con anche voi due esamineremo un po' i diversi comparti per capire perché c'è chi va male, c'è chi va peggio e chi a nord e sud. Però senatore, mi scusi se l'ho chiamata senatore, De Benedetti, come si fa a risolvere nel suo caso l'apparente antinomia di sostenere quello che lei sostiene nei suoi interventi a fuori del mercato e poi essere amministratore espresso da, sia pure come indipendente, ma insomma espresso da un comune che insieme a un altro mette in piedi una multi-utility eccetera eccetera? Ma intanto io credo che la presenza di amministratori che vengono dal privato e che rappresentano quindi delle istanze della diciamo il perché qui c'è questa antinomia che si dice benissimo, lo leggo a pagina 25 del libro, l'antinomia tra voler perseguire due obiettivi contrastanti, aumentare le risorse per i comuni ed espandere l'offerta dei servizi applicando tariffe più basse rispetto alle aziende private. Esatto. L'avete detto prima, questo secondo me è il punto. Allora, è per questo che serve che ci siano degli amministratori all'interno delle società municipalizzate che rappresentano il lato, diciamo, di quello che dovrebbe essere le ragioni del privato lì dentro. E lì dentro ci siamo come amministratore, c'è anche Paolo Cantarella che è l'ex amministratore delegato di Fiat e Gianfranco Carbonato che è il presidente dell'Unione Industriale di Torino. Quindi lei fa la parte di chi dice dobbiamo darci più efficienza e fare più utili. Dobbiamo fare chiarezza sui nostri obiettivi. Dobbiamo fare chiarezza su qual è la, e questo è veramente difficile. Oddio, nel caso di una perché anche qui prima non avete parlato dell'elettricità, che in sostanza è un settore che è stato abbastanza liberalizzato, sì. Diciamo, sì. Nonostante la presenza dominante dell'Enel, però non si può negare che sia come generazione che anche come trasporto, cioè Terna, in sostanza si sia liberalizzato molto. questo diciamocelo chiaramente. Certo. Quindi lì in un certo senso in Irid è più facile, l'acqua è solo di Genova, l'acqua di Torino non è dentro la società, quindi in realtà è una società di produzione di energia elettrica, di produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas, eccetera. Quindi diciamo opera in un settore, è in un certo senso una posizione facile. Le posizioni difficili vengono perché là dove si vede molto bene leggendo il libro, che è molto, molto equilibrato, l'ho trovato, lo leggevo ieri sera, è molto equilibrato, la devo presentare lunedì, ma e la ringrazio della sintesi che ha fatto perché mi serve, come sempre con maestria. Qual è l'obiettivo? Qual è il bene che si persegue? Non è così chiaro. Ma non è chiaro proprio in re ipsa, non è chiaro perché cambia dalle situazioni geografiche, dalla situazione del comune, da che cosa, dall'oggetto del servizio. Ora la devo interrompere perché c'è la pubblicità. Devo ammettere che se siamo arrivati a dover riconoscere che non c'è grande chiarezza e non c'è grande chiarezza su uno strumento attraverso il quale passa più del 40% della spesa di tutti gli enti locali italiani, e beh, vuol dire che c'è un problema grosso. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di questo libro, si presenta lunedì ma è già nelle librerie, Il capitalismo municipale in Italia, Il mulino, Carlo Scarpa, Paolo Bianchi, Bernardo Bortolotti e Laura Pellizzola i suoi autori. Fotografia che scandisce presenze, settori, risultati economici, attivi patrimoniali e diversi andamenti, e soprattutto interpreta l'evoluzione di questa presenza nell'economia italiana. E innanzitutto do atto che i messaggi che arrivano sono diversificati, su una forbice di opinioni molto ampia. C'è chi fa notare che attraverso le società controllate dai municipi si controllano anche gestione di servizi e che non ci vuole molto, ma solo una corretta amministrazione da parte dei delegati, del sindaco e della giunta per ottenere gestioni in equilibrio. C'è chi mi fa nei suoi sms esempi, per esempio servizi sociali o di accoglienza o di prestazione di servizi ai meno abbienti o alle famiglie. È vero che c'è anche questa tipologia di servizi un po' diversi da quelli di cui stiamo parlando, che sono naturalmente l'energia, l'acqua, ma ci sono anche società di questo tipo nell'ambito della societarizzazione avvenuta nell'esternalizzazione del modello delle municipalizzate. C'è chi accusa naturalmente di voler portare a privati rendite di posizione quando invece servirebbe abbassare il prezzo e garantire a tutti l'utilizzo universale a migliori condizioni di questi servizi pubblici. Io a questi rispondo che però su che cosa sia un servizio pubblico in Italia, nel nostro ordinamento, non dico per Giannino, per De Benedetti o per il professor Scarpa, ma in Italia in realtà è un servizio pubblico ciò che ogni regione definisce come tale, che non mi pare anche quello un gran criterio, tanto è vero che dal punto di vista ordinamentale non c'è una definizione né europea che usa la definizione servizi economici a carattere generale e non usa quella pubblica, servizio pubblico, né in Italia, perché abbiamo regionalizzato la competenza e quindi regione per regione siamo in un ambito completamente diverso, cosa che a me non sembra molto utile. Allora, ora iniziamo a vedere un po' di analisi comparata e per questo chiediamo a Federico Sassoli De Bianchi, quindi di Civicum, di parlarci di un rapporto che loro aggiornano di anno in anno con l'ausilio di Mediobanca, facendo la fotografia appunto dei comuni in cui si accentrano di più queste gestioni, di che cosa vorrebbe dire patrimonialmente per loro scendere un po' di quota e così via. È un ottimo strumento, andate sul sito di Civicum, anzi iniziamo Federico Sassoli dicendo qual è di preciso il sito di Civicum in cui tutti possono documentarsi su queste cose e sulla trasparenza dei conti comparati dei comuni italiani. Com'è il sito? Allora il sito è www.civicum.it. Altrimenti basta andare su Google e mettere Civicum e si trova subito. E la mia opinione è che le associazioni locali di Confindustria dovrebbero darvi dei soldi per commissionarvi nelle realtà dei grandi comuni, province e regioni in cui operano, chiedere a voi con l'ausilio di Mediobanca di e aggregargli, disaggregargli davvero meglio le cifre degli enti locali che sono i loro contraltari, perché secondo me gli fareste un servizio, questo lo dico agli imprenditori in ascolto. Però nell'ultima versione del rapporto sul socialismo municipale, quali erano le evidenze maggiori a vostro giudizio? Allora guardi, innanzitutto mi permette di fare i complimenti al libro e a chi lo ha scritto, perché è molto importante questo quadro complessivo che loro hanno fatto. Noi ci siamo, come lei ha detto, concentrati sulle aziende principali che operano in questi settori, e quello che emerge è in parte corrisponde, diciamo, al quadro più ampio del libro, in parte ovviamente abbiamo alcuni focus più particolari perché noi siamo andati più nel micro. Quindi si conferma un fatto che pubblico non vuole dire inefficiente, no? Ci sono esempi di efficienza, eccellenza anche nel pubblico. Certamente emerge una situazione in cui il Sud mediamente ha delle situazioni di minore redditività rispetto che al Nord. Non solo redditività, ma come emerge, è stato sottolineato, queste aziende non fanno solo, non devono fare necessariamente utile, però devono dare dei servizi di qualità, e noi siamo andati anche a verificare la qualità dei servizi, siamo andati a vedere se aziende magari con risultati economici peggiori davano risultati economici, risultati in termini di qualità dei servizi ai cittadini superiori. Questo non è così, cioè spesso a efficienza corrisponde anche qualità dei servizi e viceversa. Vorrei fare qualche esempio, per esempio, certo, di situazioni all'opposto. Per esempio, cioè, se vediamo il trasporto pubblico locale, che è un settore importante dove il 50% di tutti gli addetti lavorano in questo settore nei trasporti pubblici locali, vediamo che per esempio a Napoli i costi unitari sono il doppio che a Torino o a Genova, città per certo senso simile sul mare con le montagne eccetera. Quindi abbiamo effettivamente questa differenza che emerge anche nel libro tra Nord e Sud, dove il Nord gestisce meglio in questa situazione i propri costi. Però non sempre tutto il Nord, tutto il Sud è uguale. Prendiamo l'esempio dell'acqua. Cioè nell'acqua abbiamo delle grosse differenze. Per esempio l'acquedotto pugliese, che è il maggior acquedotto italiano e che è pubblico, perde il 50% dell'acqua. Fatto che dà così noia che nell'ultimo anno l'acquedotto pugliese ha smesso di comunicarci i dati, ma noi diciamo quelli dell'anno precedente. L'acquedotto invece napoletano ne perde un quarto, che è in linea con quello, diciamo, col dato nazionale. Quindi cioè, ci sono differenze al sud, non tutto il sud non è tutto uguale. Direi un'ultima cosa in questo proposito, che ci sono anche casi dove il sud può essere più efficiente del nord. Faccio l'esempio degli aeroporti, dove per costo unitario l'aeroporto di Napoli ha dei costi unitari che sono circa la metà di quello di Milano. A me tocca aggiungere che oltre a quello che sta dicendo, in questi settori di attività economica, tra l'altro il trasporto pubblico locale insieme alla gestione dei servizi ambientali è praticamente il comparto in cui si perde di più, con la differenza che in quello dei servizi ambientali fatti con un'ottica d'impresa ci sarebbe da guadagnare a farli bene. Quello del trasporto pubblico locale è un problema serio davvero, perché quella ha maggiore intensità di dipendenti, col maggior rapporto tra costo fisso dei dipendenti rispetto a quello che si ricava, e quindi quasi mai sono inutili. Genova, che lei citava in positivo rispetto all'altro esempio che faceva l'altra pubblica, in realtà anche l'azienda di Genova è esattamente quella che è in tutto il nord e quella che poi va peggio, cioè lì c'è un problema sul trasporto pubblico locale. La mia opinione per esempio è che continuare a buttarci soldi non è molto utile rispetto alle modalità di utilizzo del trasporto pubblico locale. Quindi, però su questo ovviamente poi faccio un altro esempio. Ci sono dei settori nei quali, e in questo c'è un capitolo del volume in cui richiamo l'attenzione di chi lo legge, in cui ci sono presenze che sono tra imprese a sostegno. La Palermo Multiservizi, per esempio, o la Gesip, sempre a Palermo. Ci sono un mucchio di esempi tra Napoli, Palermo, le grandi città del sud, in cui in realtà l'ente locale utilizza società municipalizzate per piazzare migliaia di persone che sono assunte, si perdono in questo caso sommandoli centinaia e centinaia di milioni di euro per servizi che sono in generale quelli di offrire pulizia al patrimonio immobiliare pubblico, e lì ci sono proprio cose che secondo me non stanno in piedi, sono distruzioni di valore e che non hanno a che vedere con gli esempi che faceva lei invece anche di buoni risultati, per così dire, di trasparenza. Ma complessivamente dovessimo dare un voto di trasparenza contabile e di risultato economico, saremmo alla sufficienza o all'insufficienza secondo il vostro rapporto? Ecco. Saremmo mediamente assolutamente insufficienti, perché le aziende, con eccezioni rilevanti soprattutto per le società quotate, però queste aziende non sono trasparenti, non fanno capire al cittadino e tantomeno anche all'azionista comune bene i loro conti, non esistono delle autorità locali o nazionali che controllino la qualità del servizio. Quindi siamo in una situazione di opacità totale, e aggiungerei un altro dato che secondo me è importante, cioè non esiste trasparenza neanche per quanto riguarda i metodi, le metodologie delle nomine nei consigli di amministrazione, cosa per noi importantissima. È chiaro che le aziende vanno anche in funzione di chi le dirige, e il fatto che venga accettato che non ci sia trasparenza e che venga lottizzati i consigli di amministrazione senza far emergere le professionalità è un fatto grave. Però mi permetta un aspetto che mi sembra importante, che è emerso nel libro, che è questo, cioè il nodo centrale, no, che fa emergere l'analisi del libro del Mulino è quello di finanza locale, che sintetizzerei dicendo che se alla fine poi paga Pantalone è inutile essere tanto efficienti, no? Questo mi sembra essere il nodo poi alla fine fondamentale da affrontare, su cui varrebbe la pena di discutere un attimo. E per esempio una cosa che sono convinto che molti ascoltatori non sanno è per andare a individuare anche dove sono le responsabilità di questo meccanismo che alla fine premia i comuni meno efficienti, perché poi alla fine arrivano i soldi dello Stato. Cioè, vorrei ricordare che il responsabile dei comuni è il Ministero dell'Interno, cosa che quasi nessuno sa, cioè i soldi è così. E i meccanismi arrivano. E questo in me spiega perché anche col governo attuale, che pure dice che sta varando un pacchetto per il quale si comporterà o si profilerà l'ipotesi di incandidabilità in caso di fallimento politico delle amministrazioni, un'istituzione nuova nel nostro diritto amministrativo, eppure tutti ricordiamo che pochi mesi fa per alcuni grandi comuni del centro e del sud Italia responsabili di deficit e debiti pubblici molto forti sono stati per l'ennesima volta stanziati trasferimenti straordinari, esattamente per il meccanismo che lei ricordava adesso. Eccoci tornati in studio, parliamo di capitalismo municipale in Italia, questo libro del Mulino, pluriautore, abbiamo Carlo Sparpa con noi come uno degli autori, abbiamo Franco De Benedetti, amministratore però sostenitore anche del mercato, amministratore di Iride, e abbiamo Federico Sassoli De Bianco, presidente di Civicum. Alcune telefonate, cominciamo con Tommaso da Napoli, prego Tommaso. Buongiorno dottor Giannino, senta, io sono un ex dipendente di una municipalizzata, quindi parlo per esperienza diretta. Vorrei dire due cose. La prima è che credo sia impossibile fare un discorso complessivo sulle municipalizzate, perché sono mondi differenti a seconda del settore in cui operano e dei comuni. Le municipalizzate, ho sentito dire che sono gestite, tra virgolette, il comune che decide che obiettivi tra virgolette dare. Per quanto riguarda la mia esperienza non è così semplice, il comune spesso è gestito da una maggioranza, da un insieme di partiti. Avviene che ogni partito si sceglie la sua municipalizzata e quindi ogni partito decide gli obiettivi di questa municipalizzata, che possono essere di ammortizzazione sociale, diciamo così. Sì, sì, diciamo così. A volte anche diciamo l'intermediazione così. Del consenso, scegliendo manager e alcune centinaia o migliaia di dipendenti, diciamo così. Oppure può essere anche un obiettivo di efficienza, io non escludo queste ipotesi. Esattamente. Anche nella mia esperienza, quindi questo è il modo in cui gestire. Secondo, per quanto riguarda i bilanci, io credo che i motivi delle perdite siano due. Uno l'ha detto lei, appunto l'eccesso di personale spesso non qualificato, che appunto viene inserito per questioni sociali, definiamole. Il secondo è che una cosa che spesso non traspare dai bilanci delle municipalizzate, perché ben nascosto, è che un fiume di denaro viene dato in contributi a tante associazioni o attività non ben specificate, che quindi non ho capito, lei dice c'è un'opacità anche nelle uscite di queste società, capisco. Io se ricordo a chi ci ascolta che sul totale degli oltre 200 miliardi di spesa pubblica corrente più o meno in Italia, quelli degli enti locali sono 78-79, cioè stiamo parlando di una cifra, e di questi quasi 80 miliardi stiamo parlando quasi la metà, 35, che esce attraverso le municipalizzate, quindi stiamo parlando di un fiume di denaro. Quindi questo tema sollevato per esempio dal nostro scultore di Napoli è un tema importante, perché le società servono a volte anche per spendere, ripeto, ciò che nei bilanci comunali non si può spendere. Stefano da Brescia, qual è la sua esperienza? Sì, buongiorno. Allora io vorrei essere un po' utopico, sperare che ci possano essere anche degli amministratori pubblici onesti e capaci, in modo che da far fruttare, diciamo, anche le municipalizzate come le fanno fruttare i privati. Perché abbiamo visto, Stefano, le faccio una domanda da cittadino di Brescia. Nella vicenda che ha riguardato ASM A2A, come si è sentito? Con ottimi amministratori o un po' defraudato? No, diciamo che defraudato no. Logicamente finché era ASM, secondo me era molto ben amministrata. Poi ovviamente c'è la politica, io difatti parlavo di utopia. In futuro io vedrei le municipalizzate comunque gestite da amministratori capaci e onesti, in modo che guadagniamo tutti, perché i privati, sappiamo bene, giustamente guadagnano, però intascano loro. E Stefano, io la saluto ricordandolo, sono stato a fare un dibattito a Brescia proprio sabato mattina scorso, lì c'è un problema, l'aeroporto, in cui tra amministratori ed enti pubblici di Brescia e i soci sono quelli veronesi, ovviamente c'è un piccolo problema rispetto a Orio, rispetto al sistema degli aeroporti lombardi, l'interesse di Verona è uno, e quello di Brescia è un altro. Forse un privato penserebbe solo a far traffico, se ci riesce, visto quanti sono gli aeroporti nel nord italiano, mentre lì avete il braccio di ferro degli interessi contrapposti. E quindi come si risolve? In nome di quale obiettivo? Come diceva Franco De Benedetti. Ancora, Franco da Padova. Sì, buongiorno, vi ringrazio per le splendide trasmissioni. Se posso portare due casi che sono successi a me personalmente, relativamente ai servizi fatti, uno dall'Utility e uno dall'Enel, ma cambia poco. Nel 1990, per dirvi i costi delle utility, che sono esorbitanti, calcolato che sono quattro volte quelli del privato, per uno scavo in terra, per mettere giù un tubo da due pollici di circa 3 metri, per l'allacciamento alla motopompa dei pompieri, nel 1990 un privato mi chiese 300.000 lire. L'azienda del comune di Padova, detta l'acquedotto, l'Amaga, mi chiese 1.200.000 lire. No, mi dico, lei ha detto che lavorano per poco, lavorano, guardi che ho calcolato, mio padre faceva l'imprenditore edile, aveva fatto un'analisi costi, ma ha detto se sono onesto 200.000. La linea è caduta, ma quello che era chiaro, Franco da Padova, era 300.000 richieste da un'impresa privata e 4 volte da quella pubblica municipalizzata. Allora, domanda finale per Carlo Scarpa e Franco De Benedetti. Perché comunque, tenendo sia pure questo caos anche disciplinare, regolamentare, regionale, eccetera, eccetera, in corso, perché non chiedere alle municipalizzate, quelle quotate o quelle controllate dal pubblico con una quota eccedente anche per esercitare il controllo, comunque di liberarsi di queste partecipazioni e di imbarcare quantomeno più privati per rendere più efficiente almeno la contabilità? È stato calcolato che se solo si scendesse al 51%, quindi controllo ancora di diritto pieno, eccetera, eccetera, si incasserebbero quasi 2 miliardi di euro. Se poi si scendesse al 30% addirittura, se ne incasserebbero più del doppio. Qual è la sua opinione, professor Scarpa? È evidente che il denaro è una grande tentazione. Fare cassa è senz'altro possibile, però quando si fa cassa vendendo vuol dire che si sta rinunciando tipicamente a un flusso di profitti futuri, e questa è una decisione di carattere finanziario che diversi comuni hanno affrontato. L'importante, se si fa una cosa di questo genere, è scambiare patrimonio per patrimonio, cioè se io voglio cedere una partecipazione in un'impresa perché devo avere davanti un grande progetto infrastrutturale o qualcosa di questo genere di duraturo, chiaro che se in questo modo, e questo è il grosso rischio, vedo invece di continuare a finanziare delle spese correnti, allora attenzione, perché rischiamo di andare a prendere, a peggiorare la situazione. Non c'è dubbio. E quindi questo è il rischio. De Benedetti, vi sono alcuni esempi recenti di cronaca. La CEA a Roma, in cui gli stessi esponenti politici cambiano idea rispetto al fatto che deve rimanere pubblico, poi dicono la riprivatizziamo. Che cos'è nella sua esperienza che fa cambiare idea alla politica rispetto al controllo e alla gestione di questo tipo di impresa? Ma guardi, senza andare al caso di Roma, anche dentro Iri, d'altra parte avviene sul giornale, quindi è pubblico, si sa benissimo che i due proprietari di Iri, che sono il comune di Genova e di Itria, soci di maggioranza di Iri, che sono il comune di Genova e il comune di Torino, non hanno sull'argomento idee concordanti. Il Chiamparino sarebbe d'accordo a privatizzare largamente la Iride, Marta Vincenzi, il sindaco di Genova, non è d'accordo, anzi ha fatto mettere addirittura a statuto, ed è stata una delibera comunale che l'ha detto, che il 51% deve rimanere in mano pubblica. Ecco, quindi allora, dire, queste cose, questa dualità è nel pubblico stesso, ma lì però comunque il discorso è relativamente semplice, perché quando c'è un servizio che è liberalizzato, c'è una varietà di offerta come nel caso dell'elettricità, le cose sono relativamente semplici. I problemi veri vengono quando è difficile distinguere il bene pubblico, esatto. Non so, anche nella raccolta rifiuti. La dualità che permane in questa roba tra un servizio pubblico basse tariffe e invece le forme di fare finanza anche per il comune che controlla è una dualità che secondo me andrebbe sciolta. Io sono per il privato, per l'efficienza di gestione, ve lo dico subito, è per la concorrenza, non per gli affidamenti in house, per le procedure di evidenza pubblica. La penso così, per questo dico non capitalismo municipale ma socialismo municipale. A questo cretino che non può parlarvi di quello che succede di politica grazie al bavaglio che ci è stato imposto da questo stupido regolamento, non resta altro che darvi appuntamento lunedì. Ci occuperemo di donne nel mercato, e perdonate se faccio la figura del cretino, mi scuso con voi, ma non mi scuso e non scuso chi me la fa fare la figura del cretino. A lunedì, grazie a Valerio Rocchetti e Filippo Reggi in regia, Alessandro Marcotun in redazione, linea al Giornale Radio.